Effetto Mondo. Efficacious vaccine efficacy point is extraordinary. With regard to Pfizer, it was 95% efficacious. Allora, io ho capito benissimo Pfizer, e poi vabbè, questa è la voce che sta diventando nota parecchio, no? Quella di Fauci. Anthony Fauci, classe 1940, forse l'immunologo più famoso degli Stati Uniti, e sicuramente ha dato dei contributi fondamentali a in qualche modo affrontare le crisi, soprattutto dell'AIDS, ma anche dell'Ebola, che negli Stati Uniti ha colpito molto più che da noi. E lo sappiamo, insomma, lui ha sempre cercato, come dicevamo prima con te fuori onda, di tenere la barra dritta, di non piegare la schiena, ha resistito dietro le quinte, è stato silenziato per moltissimi mesi. Ricordiamo che la task force è guidata dal vicepresidente Mike Pence, che ieri, dopo mesi e mesi e mesi in cui non facevano degli incontri pubblici, questo c'è stato, ma senza domande permesse ai giornalisti, che hanno provato a farle ma non hanno avuto risposte, è stato se non altro un vero e proprio incontro con questa task force. Era presente Mike Pence, era presente Anthony Fauci, e un intervento non lunghissimo, però si è tolto un piccolo sassolino dalla scarpa, cioè, dicendo: forse vi ricorderete le cose che io dicevo qui 8 mesi fa, che questa pandemia, contro questa pandemia non avevamo alcuno strumento, se non perché il virus fa il suo lavoro, il suo sporco lavoro, che è quello di un virus pandemico. Noi potevamo solo proteggerci con la mascherina e sperare nel vaccino. Il vaccino è arrivato e mi fa veramente effetto quando sento questi immunologi come Fauci, perché è un entusiasmo quasi, ma proprio dello scienziato che è sorpreso lui stesso dalla grandezza dei progressi che ha fatto la ricerca scientifica, perché lo ha ammesso senza problemi. Non avrebbe mai potuto pensare che questo processo di ricerca del vaccino sarebbe... Questa è una cosa che hanno detto in tanti scienziati, perché sono abituati a vedere un certo ritmo di sviluppo, di crescita di queste ricerche, basato anche sui fondi che arrivano. Questa volta i fondi sono stati molti di più, quindi la ricerca ha accelerato e loro sono stupiti. Però questa è una cosa giustamente da sottolineare. Tra l'altro il New York Times, per esempio, ma anche altri quotidiani, ma anche lo stesso Wall Street Journal, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, sottolineano che c'è il fattore scientifico, perché la scienza, la ricerca corre e vengono naturalmente messi a punto anche metodi di analisi dei dati molto più veloci. Pensiamo alla famosa intelligenza artificiale, viene naturalmente applicata anche all'applicazione dei dati scientifici. E poi che in effetti negli ultimi anni l'FDA e altri organi regolatori erano diventati un po' troppo burocratici, un po' troppo lenti, sicuramente anche grazie alla spinta data da Donald Trump si è spazzata via tanta di quella burocrazia che rallentava, senza per questo rendere il processo di validazione e controllo dei dati più sicuro. Quindi cancellare la burocrazia nociva e mantenere naturalmente invece tutti i controlli necessari. In tutto questo però, poche ore prima, e di questo parlano tutti i giornali americani e addirittura l'apertura del Financial Times, agli americani è stato detto di non viaggiare per il Thanksgiving. Adesso io ti sentivo dire che si rimanda il Black Friday, sì. Ma voglio dire, negli Stati Uniti ci riderebbero in faccia se gli dicessi una cosa del genere. Il Black Friday non si può rimandare, è il giorno dopo Thanksgiving, è come dire, non so, domani è il 21 novembre, però facciamo che domani è il 22, il 21 lo facciamo un'altra volta. È come non rimandare il Natale, no? Cioè, non si può. E quindi comunque invece resta il fatto che Thanksgiving, lo ripetiamo, cade sempre di giovedì, è un lungo weekend in cui tutti approfittano per questo, non è il cenone, ma il pranzo cena di Thanksgiving, vi assicuro, è una tante portate, quella principale è il tacchino ripieno, e appunto è stato detto agli americani, chiaramente cercate di evitare quest'anno, perché il tema adesso è anche quello di limitare questi possibili focolai, perché in attesa del vaccino, che comunque si può dare alle persone che non sono malate, il vaccino non è una cura, quindi in attesa del vaccino, tra l'altro, bisogna organizzare per bene la distribuzione. Di questo parlano molti giornali. Se vuoi sentiamo la voce di Andrew Cuomo, governatore dello stato di New York, che sapete ha chiuso tutte le scuole proprio e a sua volta ha detto rimandate le riunioni familiari di Thanksgiving, e soprattutto è preoccupato per come verrà distribuito il vaccino. The Trump administration is designing the distribution plan. And their plan basically has private healthcare companies administer the vaccine. Ecco, ricordiamo che è tutto diverso negli Stati Uniti. Bisogna prendersi un po' di tempo per capire com'è diverso il sistema sanitario. Non esiste il medico di base. Qui noi ci lamentiamo perché i medici di base in alcune regioni non ci hanno chiamati per i vaccini. Lì il medico di base non esiste e sicuramente non vi chiamerebbe per la distribuzione gratuita del vaccino. Anche qui c'è qualcuno che non vorrebbe più averlo in base. Ricordiamocelo, Giorgetti un anno fa. Ma chi va più dal medico di base? Ricordiamocelo tutti, perché a me risuonano ancora nella testa quelle parole. Giorgetti all'epoca, adesso è un po' così il grillo parlante della Lega, all'epoca era l'uomo più ascoltato da Salvini, ricordiamocelo. Ma bello, non era solo un'opinione personale, era un'opinione diffusa a livello politico, a livello di organizzazione sanitaria, eccetera eccetera. Adesso stiamo assistendo a una realtà diversa che ci fa fare ragionamenti diversi. Bisogna vedere se poi questo durerà o se torneremo poi a convincerci, certo, che invece non servono più. Comunque, appunto, lo spiegano molto bene molti giornali oggi, questa distribuzione avverrà, e tra l'altro lo stesso problema lo hanno nel Regno Unito, dove il medico di base sulla carta c'è, si chiama GP, General Practitioner, ma come in Italia, anzi molto peggio che in Italia, gli è stato tolto ruolo e capacità di contattare i suoi assistiti, su quelli che sono sulla carta i suoi assistiti. Comunque il vaccino verrà distribuito nelle farmacie, dove però avrà un costo, verrà distribuito dai medici che hanno degli studi privati. E quello che dice Cuomo è: attenzione a questo modo di distribuirlo privatamente, perché taglierà fuori, così come la prima ondata ha colpito più le persone che vivono in condizioni disagiate, perché hanno anche meno accesso, l'abbiamo sempre detto negli Stati Uniti, a cure più efficaci, soprattutto hanno uno stile di vita che li espone, comunque li rende più vulnerabili davanti al virus. Attenzione a non fare di nuovo questo errore, perché l'amministrazione Trump, sì, anche lui non ha perso l'occasione per un ultimo colpo all'amministrazione Trump, vuole guadagnare su questa distribuzione del vaccino. E ripeto, capisco che è complesso, noi abbiamo sempre poco tempo, se siete veramente interessati a capire come stanno le cose dovete fare questo sforzo in più di andare a studiarvi tutte queste differenze tra il nostro sistema e quello degli Stati Uniti. Allora, abbiamo un minuto e mezzo, cerchiamo di accontentare tutti i palati e parliamo anche un po' degli altri paesi. Sì. Sì, se vuoi, l'unica altra notizia veramente positiva che viene dagli Stati Uniti e che comunque è legata al Covid è che c'è un picco che non si vedeva da 14 anni nelle quotazioni immobiliari, e questo è legato a tutti gli spostamenti che ci sono da fuori dalle città in altri luoghi, e quindi in alcune zone i prezzi delle case, perché è aumentata molto la domanda, stanno esplodendo, e comunque questo è un buon segnale. Poi invece dalla Spagna si discute molto di questa nuova legge, di questa nuova riforma scolastica, che contiene tante cose, anche cerca di rendere l'accesso alle scuole dell'obbligo più semplice per tutte quelle fasce di popolazione più disagiate. Però c'è questo articolo che già ha scatenato molte polemiche: il castellano non sarà più la seconda lingua obbligatoria, cioè si potrà ancora studiare ma non sarà più obbligatoria come lingua veicolare, e questo naturalmente sapete che è la grande questione dell'autonomia di Barcellona, della Catalogna, quindi insomma non sarà così facile far digerire questa riforma, anche perché è stata approvata con pochissimi voti di scarto. E poi vi segnalo che invece in Germania c'è ancora molti strascichi delle proteste dell'altro giorno. Il Parlamento vuole aprire un'inchiesta, perché purtroppo perché non è una buona notizia, e soprattutto più o meno tutti se lo aspettavano, questo legame che si rafforza tra i no masken, e abbiamo visto sono no masken che fanno un po' paura, e l'estrema destra, l'AfD. Era stato proprio il rappresentante in Parlamento della Alternative für Deutschland, questo partito di estrema destra, a far sì che a richiamare tutte queste manifestazioni proprio davanti al Bundestag, al Parlamento. Eccoci qua, dobbiamo chiudere. Grazie Giulia, ci risentiamo con Effetto Giorno la settimana prossima per la puntata di oggi, con Peter Bescapè in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao, buon weekend da Alessio Maurizio, ciao.